apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di south. Però per fare la guerra che ti terrà il primo round. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di south. Però per fare la guerra che ti terrà il primo round. Io ti chiamo negro anche se pecchi di melanina. Sei bianco come il fior di latte con la diossina o la farina. Poro talco, mi vesto come un afroamericano senza un picco di farina del mio sacco. Sono bravo a fare rap, il rap è la mia esistenza. Sono etichettato al punto con la data di scadenza. Con i miei dogs faccio un giro in downtown, un drive by veloce. Sono il più feroce, guarda i miei tatuaggi a forma di croce. La sera puoi trovarmi nel club, il club Napoli, a giocare a briscola con la combriccola. Se capiti di sabato e non vuoi un taglio, meglio che ti togli, dato che c'è il torneo di Soul Calibur. E dopo faccio un giro in macchina mentre mastico del rap con i miei frate che è il mio onomastico. Mi ha regalato un coltellino a scatto fantastico, e ti giuro è più figo e più tagliente di Excalibur. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però vuoi fare la guerra che ti terrà il primo round. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però vuoi fare la guerra che ti terrà il primo round. Se mi serve dell'erba vado dal pusher all'angolo. Se ho bisogno di una fo mi basta premere il triangolo. Mi cerca il pentagono, sono un grande criminale. Perché faccio il biglietto ma non lo vado a obliterare. È la legge del più forte, la reputazione. Siamo uomini d'onore, noi ragazzi del rione. Fa attenzione, ho il nome di essere un grande pappone. Get rich with a bitch in the streets, get money. Da Napoli a Tivoli siamo i più radioattivi. Così cattivi che scappano pure i bambini poveri. Se me ne andrò altrove perché non troverò stimoli, cambierò il mio nome da Double G a Double G Unity. In quanto a beat sono molto esigente, non amo il commerciale, atto solo ad attirare la gente. Voglio un beat che pompa con un violino, oppure ti faccio una bomba pure un boom. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però per fare la guerra che ti terrà il primo round. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però per fare la guerra che ti terrà il primo round. E sto tutto fatto, poi vado alle batto. Chiamo tutti i miei fratelli senza un minimo di datto. Fratelli d'adozione per entrare in famiglia. Dammi una consumazione oppure rollami una biglia. Questa è la nostra vita, questo è il nostro lifestyle. Tra una canna e una birra è una battaglia di freestyle. Stando sempre in mezzo a quelli come noi, oversize, guardando storto tutti quanti voi. Beati voi, beati voi, cazzo, personalmente vi invidio. Perché ora come ora la mia vita è nel delirio più totale. Magari avessi pure io uno stile, ma purtroppo come vesto fa pressoché vomitare. Dei reati che fate vorrei essere anch'io reo, ma purtroppo sto al liceo e dopo il prof mi rimanda. Vorrei avere anch'io la macchina coi neon, ma sto senza un euro in tasca e vado in giro con la banda. Le ragazze di oggi le differenzieriste, ma sono tutte uguali, tu le paghi e Double G le svesti. Ci trovo in Dorione, non mi sento buono, mamma, chiamo ambulanza, ambulanza, ambulanza. Mutande recisine, perrizziamo tutto un block, ma pare che faccio il canzone sulle baby yuck. E se Snoop Dogg non l'ha capito, glielo facciamo in inglese il ritornello. No, mi scoccio. Apri gli occhi, bitch, apri gli occhi. Questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però per fare la guerra che ti attarà il primo round. Apri gli occhi, questo qui non è il paese del tuo sound. Ti piace l'underground, e mi ne metti di sound. Però vuoi fare la guerra che ti atterra il primo round.